Vi invito ovviamente a seguire i social, quindi in questo caso eilisten.radio su Instagram. E che dire? Io direi di partire da questa settimana che, appunto, come dicevo, è incredibilmente interessante a livello di contenuti. Sono successe, stanno succedendo tutta una serie di questioni che onestamente avrei fatto fatica a immaginare nel corso appunto di una settimana. Ma partiamo con ordine. E io direi di partire, prima di arrivare al caso più scoppiettante, di partire da un altro caso che ha dato, diciamo, ha fatto abbastanza discutere i giocatori e le giocatrici. Parliamo di un titolo che sta avendo molto successo su PC, ovvero Helldivers 2. Allora, questo titolo, che è disponibile su Steam, ha causato una grandissima polemica tra i giocatori perché Sony si è voluta mettere in mezzo e creare appunto sostanzialmente un problema a quello che è stato visto come un problema di accessibilità tra appunto la community e la stessa Sony. Ma andiamo con ordine. Praticamente, nel corso di, appunto, della scorsa settimana, Sony aveva annunciato che per giocare a questo titolo, che stava riscuotendo un enorme successo a livello di vendite e di community su PC, Sony ha avuto un cambio di politica improvvisa, decidendo che a partire dal giugno di questo mese sarebbe stato obbligatorio un account PlayStation per giocare a Helldivers 2 anche su PC. Questo messaggio ovviamente, diciamo, ha causato un po' di problemi. Perché? Perché i giocatori principalmente su PC sono abituati ovviamente a giocare, diciamo, in diverse piattaforme. Tra le più note, ovviamente, diciamo, i launcher, diciamo, specifici ci può essere appunto Steam, Epic e qualsivoglia altro launcher. E Sony, appunto, ha deciso improvvisamente di comunicare che da un giorno all'altro, nonostante ci fosse un folto gruppo di giocatori, nonché a questo punto anche consumatori, perché comunque pag hanno pagato per avere quel gioco, comunque. Questi giocatori da un momento all'altro dovevano, per continuare a giocare, farsi un account obbligatorio del PlayStation Network. Questa scelta, stando a quello che diceva Sony, era dovuta al fatto che Sony e Arrowhead, che è lo studio, all'interno del titolo ci stavano dei problemi tecnici da aggiustare, quindi la soluzione migliore pensata appunto da Sony e da PlayStation era quello di associare a Steam come obbligatorio fin dall'inizio un account che si rifacesse appunto al PlayStation Network. Quest'obbligo sarebbe partito appunto teoricamente dal 4 giugno ai nuovi giocatori, mentre per chi si è approcciato a questo titolo da novizio, scusatemi, non mi veniva il termine, comunque da novizio questo obbligo sarebbe scattato addirittura il 6 maggio. La community questa imposizione, diciamo, da parte di Sony non l'ha presa benissimo, il che è stato molto strano perché comunque questo titolo ha una grossa community di giocatori e quindi non è stata accolta, diciamo, nel migliore dei modi questa modalità selezionata da Sony per interagire con i propri giocatori su PC. Stando a quello che diceva, il link dell'account per giocare fatto da Sony era un metodo per proteggere i giocatori e mantenere, diciamo, alcuni valori di sicurezza di Sony e dei giochi di PlayStation Studios. Però diciamo che questo messaggio, per quanto un po' vago, poteva servire anche a livello forse di marketing per capire quanti effettivamente utenti sono presenti su PC e quanti probabilmente giocano da PlayStation. Questa è un'ipotesi. Insomma, questa imposizione scelta da Sony dei giocatori che dovevano giocare per presunte sicurezze nel link di iscrizione o comunque per per poter tutelare meglio Sony, non è stata gradita. Questa notizia ha avuto un impatto talmente grande tra la community e anche lo stesso studio di sviluppo, che le recensioni che fino a quel momento erano recensioni molto positive, perché poi comunque, attenzione, nel mercato dei videogiochi, specialmente su Steam, molti titoli hanno successo anche grazie al contributo dei giocatori che scrivono delle recensioni e possono dare un giudizio che va dall'estremamente negativo all'estremamente positivo. Fino a quel momento il titolo era riconosciuto effettivamente come un gioco estremamente positivo nella classifica di Steam, ma da quando è arrivato questo veto appunto di Sony, la situazione si è ribaltata e improvvisamente è diventato uno tra i giochi ad avere le recensioni estremamente negative. Ci sono dimostrazioni di appunto di giocatori che si sono rivoltati a questa scelta anche tramite, che ne so, pagine su Reddit, per dire. Ma anche su Steam, insomma, si potevano leggere dei commenti, insomma, un po' acidelli, diciamo, in merito a questa scelta. Tuttavia, Sony alla fine ha deciso di ritrattare appunto, questa situazione così brutta. Uno dei motivi per cui, tra l'altro, anche Steam aveva bloccato il rimborso del gioco è stata principalmente perché questo titolo era venduto, anzi è venduto anche in paesi dove magari il PlayStation Network, che Sony voleva fare appunto associare, non era disponibile se non tramite vie esterne, tipo una VPN o simili. Quindi di conseguenza anche Steam, per tutelarsi, a un certo punto ha bloccato la questione dei rimborsi, creando, suppongo, ulteriore malumore. Quindi si è creata sostanzialmente una situazione un po' caotica e decisamente imprevista. Considerate che il numero di recensioni negative arri sono arrivate a una stima di circa 215.000 recensioni negative, e la vendita poi, come dicevo, è stata bloccata in 177 paesi che non avevano neanche a disposizione le VPN per comprare, appunto, cioè per farsi questo account PSN. Ora, per PSN e PlayStation Network, per chi non sapesse. Ad ogni modo, non è che ci voglia tanto in realtà farsi un account PlayStation Network, però posso capire, diciamo, la frustrazione e il malumore del dover creare un account su un account per un gioco che comunque stava andando comunque già bene così. In tutto ciò, molti appunto si sono ribellati e alla fine Sony ha ritrattato questa scelta, decidendo di lasciare la situazione sostanzialmente così com'era. In tutto ciò, Helldivers comunque risulta essere attualmente appunto uno dei giochi, diciamo, più testati, o comunque paradossalmente tutte le recensioni negative, quasi adesso con questa situazione, insomma, particolare, si stanno trasformando in recensioni positive. E la cosa, diciamo, triste anche di questa storia è che all'interno dello studio di Helldivers 2 era presente anche un social media manager o community manager che sostanzialmente è stato contrario a questa scelta di Sony sin da quando fu effettivamente annunciata. Tale community manager, un certo Spritz, aveva di fatto, diciamo, incitato gli utenti a protestare contro l'obbligo dell'account PSN su PC, e questa scelta è stata, per quanto coraggiosa, purtroppo vista come una scelta imprudente, e di conseguenza è stato cacciato e licenziato. Addirittura lo stesso community manager l'ha dovuto annunciare appunto sulla pagina Discord del gioco. Una scelta dal mio punto di vista molto brutta, perché comunque sia, se effettivamente una gran parte di community non era d'accordo con questa scelta e anche stando a quello che si legge online, parzialmente magari anche lo stesso studio di sviluppo, comunque chi lavorava dentro Arrow, ed allontanare addirittura una persona solo perché si è permessa effettivamente di dimostrarsi, diciamo, coraggiosa e contraria all'idea principale di Sony, mi sembra un po' troppo. Ma infatti, diciamo, da dei brutti gesti come appunto il dover allontanare delle persone che comunque lavorano all'interno di un'azienda, per fortuna da una community può nascere anche qualcosa di positivo. E infatti è notizia proprio di giornata che pare che molti dei giocatori del titolo di Helldivers siano rimasti comunque sconcertati da questa scelta e dispiaciuti, al punto che stanno facendo una petizione per cercare di dare appunto un lavoro a questo community manager che è stato ingiustamente licenziato. Insomma, non sembra, proprio perché non hanno preso bene il licenziamento del community manager, da una cosa negativa, come ho detto, può nascere sempre qualcosa di positivo. Se volete, diciamo, questa petizione dovrebbe essere disponibile sul sito change.org. E sostanzialmente, appunto, gli utenti richiedono di riassumerlo, comunque di non cacciarlo, insomma, di trovargli comunque un posto di lavoro. E questa è stata, diciamo, la prima notizia di giornata. La puntata di oggi, ve lo dico subito, non sarà inerente, non saranno presenti interviste, non saranno presenti, diciamo, fatti storici, principalmente sarà una notizia appunto legata ai contenuti su appunto su contemporanei, le news, insomma, del mondo dei videogiochi. Ma prima di arrivare diciamo, alla parte più hot, chiamiamola così, della puntata, preannuncio il tutto con una canzone che è presente in un titolo che tra l'altro sto rigiocando grazie anche alla serie televisiva Fallout, che comunque è una serie che consiglio di vedere appunto a tutti i giocatori e giocatrici che ancora non hanno potuto assistere, insomma, al prodotto di Amazon. Comunque, visto che Bethesda purtroppo dalle prossime news c'entrerà qualcosa comunque parzialmente su questa cosa, il titolo della canzone è I Don't Want to Set the World on Fire degli Ink Sports, e quindi prego. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart, I have but one desire. And that one is you, no other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of, believe me. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to start a great big flame down in your heart. You see, way down inside of me, Darling, I have only one desire, and that one desire is you. And I know nobody else ain't gonna do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just wanna be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. E dopo questo meraviglioso pezzo che, appunto, come dicevo, chi ha giocato Fallout sicuramente avrà riconosciuto, torniamo in diretta qui dagli studi del Brancaleone. Allora, la notizia che verrà, di cui discuteremo insomma a breve, purtroppo è una notizia abbastanza triste, perché riprende degli eventi che stanno succedendo attualmente, diciamo, abbastanza spesso nella game industry, ovvero ci sono delle enormi case di sviluppo che comprano dei piccoli studi di produzione, ma neanche così tanto piccoli, perché comunque Bethesda, voglio dire, ad esempio, non è esattamente uno studio piccolo, ma questo è un altro discorso. Comunque esistono queste realtà che, insomma, sostanzialmente comprano degli studi di sviluppo, gli promettono di fare X progetti, e poi da un giorno a un altro, magari dopo X anni, si rendono conto che avere tanti studi di sviluppo in un'unica casata è un problema, perché non si può gestire, diciamo, il tutto nel migliore dei modi. In questo caso parliamo di Microsoft, che qualche anno acquisì Bethesda, e Bethesda ha comunque delle sottocategorie di studi che si occupano ovviamente di diversi titoli, nel senso che Bethesda non è solo ovviamente Skyrim, The Elder Scrolls o appunto Fallout, ma ci sono anche tante altre realtà, insomma. Sostanzialmente Microsoft pochi giorni fa ha annunciato l'improvvisa chiusura dei team di sviluppo come Tango Gameworks, Arkane Austin e altri due studi, che sono Alpha Dog Games e Roundhouse Games. Questa scelta è un fulmine a ciel sereno, perché onestamente nessuno si aspettava, appunto, queste chiusure così, così improvvise, insomma, così impreviste. E sostanzialmente c'è un messaggio che vi leggerò, che parla appunto della chiusura di questi studi. Prenderò ovviamente come spunto di riflessione un noto sito italiano che si occupa di notizie nel campo dei videogiochi. Microsoft ha sostanzialmente scritto questo comunicato tramite una persona interna, insomma, dello studio di sviluppo. Allora, oggi sono qui a comunicarvi i cambiamenti che stiamo apportando ai nostri team Bethesda e ZeniMax. Tali cambiamenti si basano sulla necessità di dare priorità a titoli ad alto impatto e su di un ulteriore investimento nel catalogo di Bethesda in relazione a giochi di successo e mondi amati che avete coltivato per molti decenni. Tutto ciò viene, premetto, da uno dei responsabili, appunto, degli Xbox Game Studios. Per puntare su questi nuovi franchise e investire per costruirne di nuovi, dobbiamo quindi guardare a tutta l'azienda per identificare quelle opportunità che risultano meglio posizionate per il successo. Questa ridefinizione delle priorità dei titoli e delle risorse implica che alcuni team saranno riallineati ad altri, ma anche che alcuni colleghi ci lasceranno. Tradotto, stiamo chiudendo appunto degli studi, alcuni colleghi probabilmente lavoreranno ad altri progetti, altri non possiamo permetterci di tenerceli, quindi li licenziamo. Ecco i cambiamenti che entreranno in vigore. Arcane Austin, questo studio chiuderà, scusate, chiuderà, e alcuni membri del team si uniranno ad altri studi per lavorare su progetti di Bethesda. Arcane Austin ha una storia di giochi innovativi e di impatto, un pedigree di cui tutti dovrebbero essere orgogliosi. Vero, però, insomma, annunciare una chiusura così, boh, cioè, improvvisa, sinceramente, penso che vabbè, penso che i lavoratori all'interno di Arcane non abbiano proprio preso benissimo questo annuncio, ma lasciamo perdere, andiamo avanti. L'ultimo aggiornamento di Redfall sarà quello conclusivo, in quanto terminerà lo sviluppo del prodotto. Il gioco e i suoi server rimarranno online per il divertimento degli utenti e forniremo offerte vantaggiose ai giocatori che hanno acquisito il DLC Eroe. Alpha Dog Games, anche questo studio, chiuderà. Apprezziamo la creatività del team nel portare Doom ai nuovi giocatori. Mighty Doom terminerà il proprio percorso il 7 agosto e verrà disattivata la possibilità per i giocatori di effettuare acquisti nel gioco. Tango Gameworks, e qui viene la parte, diciamo, più dolorosa, anche Tango Gameworks chiuderà. Siamo grati per il loro contributo a Bethesda e ai giocatori di tutto il mondo. Hi-Fi Rush continuerà ad essere disponibile per i giocatori sulle piattaforme attuali. Roundhouse Games, il team di Roundhouse Games, si unirà a ZeniMax Online Studios. Roundhouse ha svolto un ruolo chiave in molti dei nostri recenti lanci di giochi e portali di ZOS per lavorare su The Elder Scrolls Online. Significherà che possiamo fare ancora di più per far crescere il mondo che milioni di giocatori chiamano casa. Quindi, una riorganizzazione che è necessaria? Ma sinceramente non penso che né i tempi e né i modi siano stati esattamente corretti, però così va al mondo. Stando sempre al responsabile di Xbox Game Studios, tale Matt Booty, la riorganizzazione è necessaria per fini strategici, con il consolidamento dei team degli studi Bethesda per poter investire più a fondo nel nostro portfolio di giochi e nuovi IP. Verrà eliminato anche un piccolo numero di ruoli in alcuni team Bethesda e di publishing e corporate. Coloro i cui ruoli saranno interessati verranno informati della giornata odierna. Vi chiediamo di trattare i vostri colleghi in partenza con rispetto, forniremo il pieno supporto a coloro che sono stati colpiti dalle notizie di oggi e durante la loro transizione, comprese le loro indennità di licenziamento previste dalle leggi locali. Questi cambiamenti non riflettono la creatività e l'abilità delle persone di talento di questi team, i rischi che si sono assunti per provare cose nuove. Mi rendo conto che si tratta di novità dirompenti anche per i vari team di supporto ZeniMax e Bethesda che portano i nostri giochi sul mercato. Quindi queste, insomma, sono le dichiarazioni principali. Onestamente è stato un fulmine a ciel sereno, poi continuano, diciamo, ulteriori dichiarazioni sul fatto che comunque Microsoft ha promesso che usciranno comunque anche titoli importanti, aggiornamenti anche di altri giochi all'interno dell'universo di Bethesda, diciamo, con la priorità principale di concentrarsi però anche sulle nuove uscite che arriveranno appunto nel corso di quest'anno o nei prossimi, e dicendo sostanzialmente che comunque, come annunciato, molti dei team sono stati smistati e messi, insomma, a lavorare ad altri progetti e altri purtroppo hanno lasciato il loro ruolo. Onestamente, come ho detto, nessuno si aspettava questa notizia. È un trend negativo che, come ho annunciato all'inizio, purtroppo molti grandi software house stanno effettuando, comprano questi studi come se fossero, diciamo, delle caramelle, poi si rendono conto tardivamente che purtroppo magari non si possono gestire, o comunque ci sono magari progetti a cui preferiscono dare priorità, diciamo, più importanti, e di conseguenza poi si va a perdere, diciamo, una parte consistente di lavoro fatto da altri studi che portano comunque i più interessanti. Appunto, HiFi Rush, per dire, è stato veramente un enorme successo al lancio, soprattutto grazie al servizio di Xbox che consente di giocare, insomma, ai titoli praticamente in uscita. Ma anche a livello di vendite sembra che comunque sia andato abbastanza bene, eppure Microsoft, insomma, ha deciso di effettuare dei tagli abbastanza imponenti. Scelte di marketing comprensibili, però comunque dolorose, no, così dolorose che ovviamente anche un membro, diciamo, di Arkane Austin, tale Dinga Bacaba, ha commentato appunto con parole, diciamo, non proprio allegre. Diciamo che uno tra i character director di Arkane Lion ha voluto giustamente, diciamo, condividere la sua amarezza in merito alla chiusura dello studio di Austin. Quindi il suo commento è stato il seguente: è assolutamente terribile. Chiedo il permesso di essere umano. E a tutti i dirigenti che stanno leggendo vorrei ricordare amichevolmente che i videogiochi sono un'industria di intrattenimento culturale e che il vostro compito come azienda è quello di prendervi cura dei vostri artisti slash intrattenitori, aiutandoli a creare valore per voi. Quindi, delle parole forti, condivisibili dal mio punto di vista al 100%, che però probabilmente purtroppo non verranno ascoltate da chi di dovere. Ha anche continuato, ovviamente, tutta una serie di commenti, come ad esempio il fatto di poter rendere, diciamo, orgogliosi i lavoratori, insomma, e tutto ciò che circonda, insomma, l'universo di Arkane. E nulla, ovviamente, queste scelte hanno portato una serie di critiche molto, molto rilevanti a tutto il mondo Xbox e Microsoft. E anche la credibilità della stessa Microsoft, che sembrava essersi, diciamo, accaparrata una grande fetta di pubblico dopo appunto l'acquisto di numerosi studi di sviluppo, non, insomma, non è stata presa bene, giustamente, anche da community di molteplici giocatori. E i social sono stati tappezzati di critiche, e specialmente appunto sotto i post magari di Xbox Game Studios c'è appunto un forte dissenso, che non è dovuto semplicemente, diciamo, alle decisioni prese dai vertici della casa di Redmond, quanto più che altro a quanto gli stessi dirigenti si siano dimostrati, diciamo, anche un po' incoerenti. Insomma, tempi bui, purtroppo, per quanto riguarda il mondo Microsoft. E detto ciò, io, per omaggiare appunto HiFi Rush, che è stato comunque un gioco appunto che ha attirato l'attenzione di molti giocatori nel corso dello scorso anno, ho deciso di pubblicare questa traccia tratta appunto dal gioco stesso. Quindi prego la regia. I'll never fail. E ritorniamo in diretta. Questo era appunto uno dei pezzi che si può trovare, insomma, in iFarage. Concludiamo la puntata di odierna parlando appunto principalmente di un'altra notizia sempre importante, però è passata un po' sottotono rispetto a queste che ho raccontato appunto nella puntata di oggi. Stavolta, diciamo, abbiamo parlato proprio di tutti i publisher più importanti, da Sony a Microsoft e stavolta Nintendo, perché Nintendo ha pubblicato i dati inerente ai giochi, diciamo, più venduti del suo sistema di gioco, ovvero la Nintendo Switch, e anche delle unità vendute attualmente disponibili sul mercato. Stando appunto all'ultimo comunicato stampa, Nintendo Switch ha venduto 141,32 milioni di unità in tutto il mondo. Questi sono i dati aggiornati al 31 marzo del 2024. Quindi un dato impressionante per una console che comunque continua a macinare record su record. I titoli principali da questa classifica che sono emersi, anche appunto i videogiochi più venduti per la console della grande casa di Kyoto, non stupisce neanche più di tanto, ma l'unica cosa che veramente colpisce è la longevità di questo titolo, davvero mi verrebbe a dire immortale, ma probabilmente anche grazie ai continui aggiornamenti e insomma personaggi, insomma cose varie. Mario Kart 8 Deluxe, che resiste, ricordiamo, dell'epoca del Wii U, di cui poi è stato fatto appunto una versione per Nintendo Switch, risulta attualmente il videogioco per Nintendo Switch più venduto, con 61,97 milioni di copie vendute. Segue anche Animal Crossing New Horizon con 45,36 milioni, poi Super Smash Bros. Ultimate con 34,22 milioni, The Legend of Zelda Breath of the Wild 31,85 milioni, Super Mario Odyssey 27,96 milioni, Pokémon Spada e Scudo con 26,27 unità, milioni di unità. Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto con 24,92 milioni, Super Mario Party, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom con 20,61 milioni e New Super Mario Bros. U Deluxe con 17,45 milioni. Questa era la top 10 di videogiochi marchiati di Nintendo che risultano appunto tra i più venduti in tutto il mondo. Ma non è tanto questa la notizia, diciamo, ad aver scatenato gli utenti e i giocatori, quanto il fatto che per la prima volta Nintendo si è, diciamo, un po' sbottonata aprendosi su quella che viene definita come una Nintendo Switch 2, quindi la console che sarà diciamo il seguito dell'attuale hardware a disposizione. Il presidente Furukawa descrive la nuova console come un prossimo modello di Switch, quindi questo ha alimentato, diciamo, ulteriormente i rumor che la vedono effettivamente come un upgrade dell'attuale console, di cui alcuni fortunati giornalisti non hanno potuto, diciamo, vederla visivamente, ma hanno potuto toccare con mano, letteralmente, senza poterla appunto visionare, l'hardware. Almeno questo è quanto è emerso da alcuni giornalisti di settore nel corso di qualche settimana. E comunque il presidente Furukawa finalmente si è espresso sull'arrivo di questa nuova console. E ha dichiarato che appunto la console può essere descritta come prossimo modello di Switch. Come Questa affermazione arriva, diciamo, in risposta a delle domande poste da alcuni azionisti durante un meeting avvenuto in quella giornata in cui appunto si chiedeva se il successore di Switch potesse essere una console completamente nuova o comunque se si discostava da quella che attualmente è a disposizione. La sua risposta, stando ai presenti, è stata che il prossimo modello di Switch appunto è il modo più appropriato per descriverla. Quindi diciamo, è rimasto sempre un po' misterioso, però insomma, descrivendo il fatto che il prossimo modello di Switch è il modo più appropriato per descriverla, fa pensare che effettivamente sarà effettivamente un upgrade dell'attuale modello. Quindi è una prima conferma sul fatto di questa presunta Switch 2. Un dettaglio che fino ad adesso non era mai stato particolarmente descritto o comunque ufficializzato. Ogni volta Nintendo, quando si ponevano delle domande in merito a questa presunta nuova console, non rispondeva mai, diciamo, con dei fatti appunto concreti. Quindi, diciamo, sempre Furukawa attraverso Twitter ha suggerito appunto che ci sarà, insomma, che arriverà questa console probabilmente entro la fine dell'anno fiscale successivo, ovvero verso il marzo del 2025. E in tutto ciò è stato confermato sempre tramite questa dichiarazione che si può vedere anche su Twitter, che Nintendo ha programmato un Nintendo Direct, ovvero ormai il metodo comunicativo in cui le aziende, appunto Nintendo è partita per prima, ma poi anche Sony e Microsoft hanno preso spunto, diciamo, dallo stesso Nintendo Direct, comunque con cui Nintendo specifica ai vari giocatori le uscite che arriveranno nel corso dell'anno. E ha confermato appunto questo direct per il mese di giugno e ha precisato nel suddetto tweet che dicevo che in quell'occasione non sarà in alcun modo accennato questa Switch 2, quindi non ci saranno dettagli in merito al nuovo hardware, ma sarà dedicato principalmente alle ultime uscite previste per appunto l'hardware corrente, ovvero Nintendo Switch. Quindi probabilmente verranno presentati ulteriori giochi e quindi insomma, prima che la buona Nintendo Switch vada in pensione ci sarà ancora almeno un anno di vita, molto probabilmente. Dunque, cari ragazzi, siamo arrivati praticamente a conclusione di puntata. Io vi ringrazio per essere rimasti in ascolto. Ricordo che l'appuntamento di Elisten è ogni giovedì dalle 17, salvo imprevisti. Purtroppo nella giornata di oggi, diciamo, il traffico di Roma, come al solito, non ha aiutato a farci partire in anticipo. Però comunque dalle 17 siamo qui negli studi del Brancaleone. Ringrazio Zeno FM, Pirate Radio, Gemini Network che ci danno l'opportunità, insomma, di poter parlare di questi argomenti così particolari. Concluderei questa puntata con un tema che a me è sempre caro. Ok, passiamo dai videogiochi agli anime, però proprio perché mi piace questo concetto di unità. Visto che amo tanto anche One Piece, ho pensato di chiudere la puntata con il tema di One Piece. Grazie a tutti, ci sentiamo la settimana prossima. 振りかぶってた高台の地図も確かめたのなら伝説じゃない、個人的な嵐は誰かの愛をリズム乗っかって追い過ごせばいい、ありったけの夢をかき集め探し物を探しに行くのさ、ポケットのコイン、それと You wanna be my friendやっても肩をされて一歩リードさ、今度会えたなら話すつもりさ、それからのこととこれからのことを、つまりいつもピンチは誰かにアピールできるいいチャンス、知識過剰に染み垂れた夜をぶっ飛ばせ、宝箱に興味はないけどポケットにロマン、それと You wanna be my friendYou wanna be my friend